dividere coppie sposate, per tornare le coppie di fatto, che oggi sono milioni in questo paese, che non hanno tutele, perché le discriminazioni che subiscono oggi, coppie che convivono, sono... La domanda, sa che cosa significa queer? Queer? No. E omosessuale, gay? Sì. Che cosa significa? Omosessuale è un modo di vita, un modo di essere. Adesso non so da dove provenga questa cosa, però so che cosa vuol dire, ecco, spiegarlo. So chi sono i gay, so chi sono i gay e sono minoranza, forse perché discriminati, ma è un po' come le cose rare, no?